mente di lei. Di lei, in di lei, dentro di lei. Vorrei i suoi occhi nei miei per sempre, per mai. Lui che non la ama, lui che non la sazia. La mia lirica potrebbe, ma per ora distanza. Distanza in stanza cammino, mentre dice basta il vicino. Io vi sveglierei tutti, vorrei farvi cantare tutti. Urlate, urlate, o sarete più farabutti dei farabutti a negare il cuore e i vostri lutti. E non intendo solo i morti, ma anche del corpo e della mente. Niente meglio di lei, sono il suo Axl Rose, il suo Van Gogh, il suo Picasso e il suo Salvador Dalí. Il suo boyman, il suo boyfriend, il suo friend, il migliore con cui abbia mai potuto parlare. Rimango qui, re dentro un alveare, regina per il miele che so donare, che lei sa donare, che noi vogliamo, tutti per noi, per lei combattiamo. Ti farò regina, ti farai regina per me, oh. Non voglio mica dire che staremo per sempre insieme, ti giuro amore, ma non eterna fedeltà. Monogamo era il diavolo, io diavolo, bianco, stanco, stanotte in bianco, la passerò ancora disperso nel ricordo di quella storia avvenuta mai, ma nella mia mente grande, tu lo sai. Farò più soldi di tutti gli ebrei, una Lamborghini, quella che sognavamo da bambini, ma poi la vita fa il resto. Lo stesso resto davanti a un microfono a cantare. Molesto la verità fino a che non dice: vorrei parlare ora, vorrei parlare. La vera storia di un criminale e la sua idea criminale.